i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. La guerra delle app, strumenti dei conflitti moderni, di Andrea Spada. Air Alert, IPPO, GIS-ART, Reface, Air Raid, RWC sono solo alcune delle applicazioni per telefoni cellulari più scaricate e usate dagli ucraini, sia civili che militari, dall'inizio dell'invasione russa. Applicazioni che avvisano in caso di attacco aereo o missilistico, che tracciano i droni di fabbricazione iraniana, che aiutano a trovare il rifugio antiaereo più vicino, che aggiornano la posizione delle forze armate nemiche e i loro spostamenti fino ad arrivare a quelle che raccolgono prove dei crimini di guerra. L'Ucraina ospita, infatti, una numerosa e variegata comunità di software house e suoi sviluppatori. Dall'inizio dell'invasione russa si sono trasformati in creatori di applicazioni telefoniche a sostegno dell'esercito, ma soprattutto della popolazione. A conquistare il podio del servizio più scaricato su App Store, in Ucraina è Air Alert, in grado di inviare avvisi sul cellulare in caso di attacco aereo in una determinata zona. I civili, sparsi nelle aree del conflitto, hanno iniziato anche ad adoperare piattaforme di messaggistica criptata e sistemi che consentono di consultare mappe e cartine, senza bisogno di essere connessi a internet. Su Play Store e App Store, tra le applicazioni che hanno conquistato gli ucraini, ci sono Telegram, Zello Walkie Talkie, BridgeFi e Signal. In particolare, quest'ultima si distingue per l'efficacia della crittografia end-to-end, che assicura una tutela quasi totale della privacy delle chat. Su Signal la segretezza non si applica soltanto sugli scambi a due, ma anche su quelli di gruppo e nelle telefonate. Per quanto riguarda Telegram, invece, per criptare le comunicazioni è richiesto un intervento manuale. Tra i servizi radio e i database di mappe consultabili senza connessione troviamo Radio Ucraina, Simple Radio, Maps.me e Flight Radar, preziosa fonte di aggiornamenti sul traffico aereo. IPPO. L'Ucraina, fin dal giorno della sua invasione, è oggetto di attacchi missilistici a lungo raggio. Negli ultimi mesi, però, gli attacchi si sono intensificati con il lancio da parte della Russia di centinaia di droni Shahed 136, economici e di fabbricazione iraniana, contro le città e le infrastrutture. I droni Shahed 136 sono una sfida per i radar tradizionali, perché la loro traiettoria di volo iniziale è bassa, circa 30 metri dal suolo, e le loro piccole dimensioni hanno un modesto rilevamento radar. Quando si avvicinano ai loro obiettivi, la loro altitudine aumenta prima che si tuffino a terra con effetti terrificanti. L'ultima applicazione utilizzata, in ordine di tempo, per contrastare gli attacchi si chiama IPPO, un'app telefonica con cui gli ucraini possono segnalare i droni e i missili premendo un pulsante sul proprio cellulare. L'applicazione è stata sviluppata per consentire anche ai civili di segnalare l'avvistamento di droni e missili russi in arrivo e di aumentare la percentuale di abbattimenti prima che colpiscano. Essa si basa sul GPS e l'utente deve solo puntare il dispositivo in direzione dell'oggetto in arrivo e premere un pulsante per inviare un rapporto sulla posizione all'esercito ucraino. In genere, i droni sono impostati per sorvolare aree remote o fiumi e spesso vengono lanciati di notte. Tuttavia, il team che ha creato l'applicazione ritiene che la velocità di crociera relativamente bassa dei droni, circa 100 km orari, e il loro caratteristico rumore, simile a un tosaerba, li renda facilmente individuabili da terra. Per motivi di sicurezza, l'applicazione IPPO funziona solo in combinazione con l'applicazione governativa DIA, che consente agli ucraini di memorizzare la carta d'identità, la patente di guida e altri documenti ufficiali sul proprio telefono. GIS-ART. L'esercito ucraino utilizza un'app per individuare e distruggere in poco tempo i bersagli russi. Si chiama GIS-ART for Artillery ed è stata sviluppata dal programmatore ed ex ufficiale di artiglieria ucraino Yaroslav Shertsyuk. Localizza i bersagli nemici e li trasmette alle armi ucraine più vicine, coordinando cannoni, lanciarazzi, mortai o droni. In questo modo, se prima ci volevano minuti per identificare un bersaglio e distruggerlo, ora ci vogliono non più di 30 secondi. Il sistema di funzionamento dell'app ricorda quello di Uber, che mette in collegamento il passeggero con l'auto più vicina, fornendo in tempo reale indicazioni sulla loro posizione e vicinanza. Allo stesso modo, GISART è in grado di elaborare dati da droni, smartphone, telemetri e simili per identificare e localizzare il bersaglio nemico. Con questi dati, il sistema crea una mappa in tempo reale che aggiorna la posizione delle forze armate nemiche e i loro spostamenti, permettendo agli ucraini un controllo del campo di battaglia molto dettagliato. Una volta localizzato l'obiettivo, l'app si collega con l'obice ucraino più vicino che riceve le coordinate del bersaglio con una precisione che va dai 6 ai 25 metri. ReFace è un'app di face swapping sviluppata da una startup con sede a Kiev e sta usando la sua popolarità per informare gli utenti russi sull'invasione in atto e indirizzare il sostegno internazionale. La guerra in Ucraina si è infatti estesa anche nello spazio mediatico. Gli ucraini, mentre si riparano dalle bombe di Mosca, stanno cercando da mesi di resistere anche alla propaganda filorussa, diffondendo oltre confine notizie, video e meme per mostrare le conseguenze dell'invasione. L'app, grazie al machine learning, permette di scambiare il proprio volto con quello di diversi personaggi famosi nei video e nelle GIF e di condividere il risultato sui social media. ReFace ha inviato milioni di notifiche push agli utenti dell'app in Russia e in tutto il mondo, invitando i russi a unirsi alle proteste e schierarsi con l'Ucraina. Uno degli obiettivi principali è infatti raggiungere il pubblico russo aggirando i tradizionali canali di comunicazione come Twitter e Facebook, che in Russia sono stati limitati. ReFace sta continuando a inviare agli utenti notifiche e video della reale situazione sul campo, superando i tentativi di censura. Air Raid. Quest'app ha ampliato l'elenco dei pericoli segnalati agli utenti con un avviso all'inizio e alla fine delle emergenze, con 5 tipi di allarme: aereo, bombardamenti di artiglieria, scontri in strada, minaccia chimica e pericolo di radiazioni. Per ogni tipo di pericolo viene creato un segnale audio diverso. Oltre alle segnalazioni in un messaggio di testo, l'utente riceve istruzioni con raccomandazioni su come comportarsi a seconda del tipo di pericolo. Air Raid è stata sviluppata per avvisare la popolazione ucraina con il supporto del Ministero della Trasformazione Digitale. Attualmente è utilizzata da 12 milioni di possessori di cellulari e l'aggiornamento è disponibile per iOS e Android. RWC è l'app per raccogliere prove dei crimini di guerra russi in Ucraina, acronimo che sta per Russian War Crimes, e si affianca al portale governativo warcrimes.gov.ua. L'app offre tutte le funzionalità del sito, rendendo il processo di presentazione delle prove più veloce. L'applicazione e il portale hanno istruzioni chiare e garantiscono la protezione dei dati personali e la conservazione delle prove. Air Alarm e Air Alert. La prima app è stata sviluppata per aiutare gli ucraini a trovare il rifugio antiaereo più vicino nella zona, dando all'utente la possibilità di monitorare una o più città o regioni selezionate. La seconda, invece, riporta la mappa dell'Ucraina con le varie regioni. Queste si colorano di rosso quando scatta l'allarme aereo e poi tornano bianche una volta che l'allarme cessa. OBMY. Internet è un ponte con il resto del mondo. Serve a organizzare raccolte fondi, aiuti, diffondere notizie, sentirsi meno soli. OBMY è un servizio di messaggistica che serve a combattere la solitudine e a stare in contatto con i propri cari senza bisogno di parole, foto o video. Solo emoticon, un messenger dei sentimenti, e lo aveva sviluppato prima dell'invasione un team di giovani informatici ucraini. E i russi? In Ucraina i militari russi sono stati geolocalizzati grazie all'utilizzo di app per incontri. Nelle fasi iniziali della guerra, alcuni militari russi hanno infatti imprudentemente o per ignoranza utilizzato Tinder per conoscere donne ucraine, senza sapere o pensare che questa app visualizza in un raggio di pochissimi chilometri i propri utilizzatori. A rivelarlo sono stati i servizi segreti occidentali che fin dai primi giorni dell'invasione hanno usato i social per seguire le operazioni militari. Le app gratuite di incontri si sono rivelate così utili per tracciare l'avanzata delle truppe di Mosca. Appena si sono accorti della falla, i vertici militari russi hanno ordinato ai propri soldati di spegnere i cellulari. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.